via qui sulle caratteristiche della civiltà della cultura cinese, cui seguiranno alcune mie domande relative allo sviluppo cinese, che è il fenomeno sociopolitico più rilevante della globalizzazione, quindi un gruppo di domande sulla politica interna ed estera della Cina, infine alcune considerazioni sull'attualità e, come al solito, è auspicato un dialogo con voi. Quindi io spero che voi abbiate un po' di domande. Va bene, non tolgo altro tempo, cominciamo a questa introduzione generale. Buongiorno. Dunque, appunto, come diceva il professor Giannulli, l'irrompere della Cina sullo scenario internazionale a partire dagli ultimi 30 anni, quindi alla politica di apertura, tra molte virgolette, di Deng Xiaoping, fino ad oggi è stato uno dei fattori più dirompenti della globalizzazione. Per però cercare di comprendere che cosa è questa apertura della Cina e che poi che effetti potrebbe avere sul futuro, bisogna andare un attimo indietro e cercare di capire che cos'è la Cina, impresa immane, anche perché insomma esperti di Cina non ne esistono, come ha avuto modo di dire recentemente l'ambasciatore statunitense in Cina, che peraltro è una persona che parla perfettamente mandarino. Si può cercare di rintracciare una serie di linee guida nella civiltà cinese, che sono perpetue, che sono delle costanti, che hanno accompagnato la civiltà cinese fino ad oggi. Allora, innanzitutto parliamo sicuramente di un territorio sterminato che ha una etnia dominante, che è quella che appunto conosciamo come i cinesi ordinari, che sono i Han, i quali sono stati il centro e il motore propulsore di una civilizzazione che ha investito tutta una serie di minoranze. Se ne contano 56 in tutta la Cina, dalle più diffuse fino alle più turbolente, segnatamente gli uiguri, turcofoni e islamici della provincia dello Xinjiang, cioè l'estremo ovest della Cina, e i tibetani. Tutte queste minoranze sono state pian piano, in un processo che è durato millenni, sono state attraverso poi un modello che è anche quello che potremmo dire continua ancora oggi, sono state coagulate attorno a un centro. Questo centro è appunto Pechino, è stato l'impero cinese nel quale sono alternate varie dinastie, e con un modello verticistico da un lato, quindi con quello che era appunto l'imperatore, il quale contava su una amministrazione estremamente selezionata, che doveva appunto amministrare delle varie province, e poi però con tutta una serie di spinte centrifughe che continuano ad essere una delle cose che oggi Pechino teme di più. L'etimologia, i cinesi chiamano se stessi, la Cina in cinese è chiamata Zhongguo, significa paese di mezzo. L'idea che hanno i cinesi è che ci sia appunto la Cina al centro, e che poi con delle onde concentriche si diffonda appunto fino al grande altro, che è tutto il resto, che siamo noi. Non dimentichiamo che parliamo di un paese nel quale a un certo punto un imperatore decise che non si doveva più andare per mare, e tutte le navi vennero bruciate e vennero sospese tutte le esplorazioni marittime. Tra lasciamo tutte l'avvicendarsi delle dinastie, anche perché non penso ci interessi qui. Comunque, dopo la corrotta dinastia Qing e poi l'immergere sulla scena, di rompere sulla scena del Partito Comunista Cinese, si arriva a tutte le tragedie che ha passato il popolo cinese nel XX secolo, ma nel 78 c'è questa politica di apertura di Deng Xiaoping. Una politica di apertura che passa attraverso essenzialmente un'apertura economica. Deng vara questi esperimenti che sono le zone economiche speciali. La prima e la più importante è Shenzhen, che 30 anni fa era un villaggio di pescatori ai confini con Hong Kong, all'epoca ancora colonia inglese, nella quale vengono varate degli esperimenti di economia di mercato, che funzionavano essenzialmente così. Brutalmente, l'industriale hongkongese o taiwanese che voleva, e poi occidentale che voleva produrre a basso costo, sapeva che in queste zone economiche speciali c'erano tutta una serie di sgravi fiscali e di incentivi alla produzione. 30 anni dopo, passando anche attraverso la tragedia di piazza Tiananmen, il modello si è diffuso in tutto il paese. Quindi abbiamo un'apertura economica con investimenti dall'estero che arrivano in tutta la Cina, anche se lo sviluppo è grosso modo concentrato nelle aree costiere, mentre l'interno ha invece uno sviluppo di gran lunga inferiore. Tra l'altro vi segnalo che a gennaio di quest'anno l'ufficio nazionale di statistica di Pechino, onnipresente l'ufficio nazionale di statistica di Pechino, ha reso noto che la forbice, il divario tra le campagne e le città, economico tra le campagne e le città cinesi, non è mai stato così ampio come adesso. Quindi un paese che attualmente siede sulle più vaste riserve di valuta estera di tutto il mondo, che sono quantificabili in più di 2.400 miliardi di dollari. Loro devono tenere delle riserve di valuta estera perché lo yuan è una moneta non convertibile, e quindi è necessario avere, non convertibile significa che tutta una serie di operazioni di operazioni internazionali non possono essere denominate in yuan. Lo yuan è una, poi parleremo anche della moneta. Comunque, tutto questo per dire che c'è un'apertura economica e contemporaneamente però c'è una classe politica la quale non ha intenzione di, anche attraverso varie articolazioni, evitiamo di pensare al Partito Comunista Cinese come un blocco unico, perché non è così, però una classe politica che non ha intenzione di derogare a tutta una serie di questioni, cioè libertà di stampa, elezioni universali, suffragio universale che ovviamente non esiste, e libertà di informazione e tutto il punto, le varie articolazioni di uno Stato autoritario, potete immaginare. Uno Stato autoritario che però, appunto, è uno Stato autoritario con caratteristiche cinesi. La cosa che colpisce di tutto questo è come la Cina abbia la capacità di assimilare quello che viene dall'estero rendendolo cinese. Quando nel 2001 la Cina entrò nel WTO, tutti pensavano, perlomeno gli americani, l'Occidente sperava che questo sarebbe servito a una maggiore democratizzazione. Adesso siamo nel 2010 e su tutta una serie di fronti possiamo dire che la Cina è riuscita a ritorcere alcune delle regole del WTO contro WTO stesso. Quindi più che di una occidentalizzazione della Cina, possiamo parlare di una sinizzazione della WTO e dell'Occidente. E, concludendo questa parte, un modello culturale molto forte, qualsiasi cosa viene tirata fuori, poi viene assorbita con caratteristiche cinesi, masticata e rimangiata fuori con caratteristiche cinesi, e un modello culturale che con tutta una serie di problemi interni però si sta dimostrando un modello forte che riesce a tenere insieme un paese da quasi 1,5 miliardi di persone con tutta una serie di problemi interni che però non vengono ovviamente alla ribalta, ma che per ora non mostra grossi segni di cambiamento né di criticità grosse all'interno. Lo sviluppo cinese da che cosa è originato? È originato essenzialmente da tutta una serie di fattori. Allora, quello che dicevamo prima, Hong Kong, Taiwan, Singapore, che erano appunto con varie gradazioni, comunque possiamo dire che facciano parte in senso lato di una grande Cina, cioè culturalmente sono cinesi. Hong Kong è un ex colonia inglese, ma pur essendo appunto si parla il cantonese, eccetera, comunque fa parte, aveva un sistema capitalista che ha tuttora, però tutte queste, Taiwan invece appunto è l'isola che ha ospitato gli sconfitti del Kuomintang durante la guerra civile subito dopo la seconda guerra mondiale. Il Kuomintang, cioè il partito nazionalista di Chiang Kai-shek, viene sconfitto e si ritira a Taiwan e vara una forma di dittatura che poi viene sorretta dagli Stati Uniti, ma che ha un sistema capitalistico, quindi si sviluppa un'industria a Taiwan, si sviluppa un sistema appunto capitalistico a Taiwan, si sviluppa un sistema capitalistico a Hong Kong, per le ragioni che possiamo immaginare, in quanto era una colonia inglese che è stata restituita alla madrepatria cinese nel 97. Singapore era una città-stato che faceva parte della confederazione malese, che poi ha assunto una sua autonomia, nella quale comunque la popolazione è etnicamente cinese a maggioranza, anche lì un sistema capitalistico, e poi la diaspora dei cinesi, stimabile in 35 milioni in giro per il mondo, i quali comunque hanno fatto affari, business per fatti loro in tutto il mondo, e che a un certo punto hanno cominciato nel momento in cui c'è stata l'apertura, a reimmettere questo flusso di capitali verso la Cina. Questo ha portato appunto nell'arco di 30 anni, dal 78, 32 anni, dal 78 ad oggi, alla diffusione di questo modello di turbocapitalismo, di stato autoritario con un capitalismo esasperato. Cioè, potremmo passare veramente delle ore a cercare di definire di che cosa si tratta. È un modello cinese con varie caratteristiche che sono esclusivamente le loro. Un modello, quindi, allora c'è stato questo flusso di capitali che è rientrato, che è servito a investire, che ha portato lo sviluppo nelle aree costiere soprattutto, con però tutta una serie di quindi un'enorme disponibilità di moneta, con tutta una serie però di problemi interni. Allora, puoi aprire un'impresa in Cina da un momento all'altro, quindi uno di questi una di queste officine nelle quali vengono prodotti tutta questa produzione che ha invaso si può fare in tempi brevissimi. Il costo della manodopera è ovviamente estremamente ridotto, anche se nel 2008 viene approvata una legge che ha effettivamente concesso una serie di maggiori aperture alla classe lavoratrice. Non esiste un sindacato degno di questo nome, anzi c'è un gioco di parole che mi perdonerete, cioè c'è un sindacato giallo che fa gli interessi dei datori di lavoro e non quelli dei lavoratori. Si è prodotto a costi bassissimi e effettivamente la Cina è diventata la, perdonate la banalità, fabbrica del mondo. Adesso però loro stanno cercando di, con la crisi del 2008, di varare un modello differente, un modello che non sia più così dipendente dall'esportazione. Questo perché effettivamente la crisi che ha colpito l'Occidente ha indirettamente colpito anche la Cina, perché è chiaro che se l'Occidente non compra più, le esportazioni cinesi vanno giù. Nel 2008, agli albori della crisi, cioè quando la crisi era già in realtà quando era chiaro quello che stava succedendo, il governo cinese vara un pacchetto di stimoli all'economia imponente da 4.000 miliardi di yuan, che sono equivalenti grosso modo, sono più di 400 miliardi di euro. Questo pacchetto di stimoli all'economia viene indirizzato essenzialmente verso tre grossi tronconi. Il primo sono le infrastrutture, e vedremo come poi questo può creare una serie di problemi interni alla Cina. Il secondo è dotare il paese di un sistema sanitario degno di questo nome, perché il sistema sanitario cinese è stato smantellato nel 1992 e quindi tutte i vantaggi che può avere un sistema sanitario occidentale non esistono, bisogna pagare, si mette quasi tutto, e poi l'istruzione. Queste due ultime voci a che cosa servono? Servono essenzialmente a appunto a rendersi indipendenti dalle esportazioni e a creare un mercato interno. Quindi la Cina vuole non più essere solamente la fabbrica del mondo, ma vuole elevare il livello interno dei consumi e produrre da sé beni che poi andranno sul mercato interno, elevando quindi il tenore di vita di una popolazione sterminata. Tutto questo però sta creando una serie di problemi interni notevoli. Prima parliamo dei problemi economici e poi cerchiamo di inquadrare quelli sociali. Allora, di questi 4.000 miliardi di yuan che sono stati messi in campo dal governo, una gran parte è finita in infrastrutture e quindi in progetti di tipo immobiliare. Questo sta causando ha causato nell'ultimo anno un aumento enorme dei prezzi delle case. La classe media cinese, la quale aveva come ambizione l'acquisto di una casa e che fino a 3 anni fa si sarebbe potuta permettere con i risparmi di una vita l'acquisto di una casa, adesso si trova in serie difficoltà. Secondo i dati economici che sono stati diffusi ieri sul mese di maggio, solo nel mese di maggio il prezzo delle abitazioni nelle 70 principali città cinesi è aumentato anno su anno rispetto al maggio dell'anno precedente del 12,4%, è aumentato del 12,8% ad aprile e negli ultimi 7-8 mesi ha registrato degli aumenti continui. Il governo cinese sta cercando, essenzialmente è stata messa questa immensa liquidità sul piatto, il governo cinese ha cercato di fatto comprarsi dei punti di PIL, ci sono riusciti, loro hanno chiuso l'annus horribilis 2009 con una crescita economica del più 8,7%, però che se fate un confronto con quello che sta succedendo da noi in Occidente, per quanto si tratti di dati un po' taroccati, è comunque una crescita enorme, però contemporaneamente tutta questa immensa mole di liquidità sta creando una serie di problemi economici interni ai quali il partito sta cercando di ovviare. Quindi aumento dei prezzi delle case, inflazione che per quest'anno si sta cercando di contenere al 3%, ma che secondo molti economisti indipendenti nelle zone più sviluppate è già al 7%. Quindi la popolazione si ritrova con l'inflazione che sale, con il proprio stipendio che vale di meno. Questo sta generando una serie di tensioni e una serie di fenomeni nuovi, o comunque abbastanza inediti, perché se è vero che ogni anno vengono registrate centinaia di manifestazioni locali, quindi la gente scende in piazza e protesta contro il funzionario corrotto, protesta contro una gestione, parliamo di manifestazioni villaggio con 100-200 persone che scendono in piazza, protesta contro il funzionario corrotto, protesta contro una gestione dissennata della, tra molte virgolette, cosa pubblica. Adesso, nelle ultime settimane, si sono registrati degli scioperi. Questi scioperi sono organizzati via internet, in una delle chat che sono state prontamente cancellate dalla censura sulla cinese, si leggeva: il sindacato non fa il nostro interesse, dobbiamo organizzarci da soli. Sono state coordinate via internet. Quelli che molti sono studenti. Esatto. È stata coordinata da studenti delle scuole professionali, i quali devono obbligatoriamente passare un certo periodo dell'anno nelle fabbriche con un salario inferiore rispetto a quello degli operai. Teniamo conto che il salario medio, ci sono varie fasce a seconda delle zone, comunque diciamo che è attorno ai 90 euro mensili. Questi scioperi sono stati capaci nel giro di qualche settimana di paralizzare la linea produttiva dell'Honda, di ottenere dei aumenti sensibili del salario e di fare notizia, nonostante, come potete immaginare, la censura sia molto molto forte. Il professore è andato a protestare. Quindi questo è un fenomeno nuovo, e in particolar modo però è un fenomeno che viene tenuto d'occhio perché questa saldatura tra operai e studenti non è una cosa inedita, è una cosa che si era già vista ai tempi di Tiananmen e che potrebbe essere una delle principali spine nel fianco della leadership che potrebbe mettere in discussione la cosiddetta stabilità sociale. Il mantra dell'amministrazione del presidente, nonché segretario del Partito Comunista Cinese Hu Jintao, e del premier, il primo ministro Wen Jiabao, è una società armoniosa. Quindi qualsiasi manifestazione di dissenso sociale di questo tipo e di altri tipi va comunque arginata. Messa a tacere, attenzione però, non solamente con metodi violenti, autoritari, c'è comunque una tendenza a dialogare. Quello che è stato fatto nell'ultimo periodo è mandare il funzionario locale a parlare. parlamentare con gli scioperanti, con quelli che protestano e cercare di aggiustare la situazione in questo modo. Questo perché l'immagine armoniosa e l'idea appunto della società armoniosa non deve essere scalfita da forme di dissenso, che però sono all'ordine del giorno, sia per fattori etnici sia per fattori economici. Nel luglio dell'anno scorso scoppiarono delle violente proteste nella provincia turcofona islamica di cui parlavamo prima, cioè lo Xinjiang, ai confini con l'Asia centrale, che è abitato principalmente da questa minoranza turcofona islamica che sono gli Uiguri, i quali però sono stati poi sottoposti a una massiccia sinizzazione che non ha avuto esattamente gli effetti sperati. Questa opera sono 30 anni che viene portata avanti principalmente dall'esercito di liberazione popolare, dall'esercito cinese, che manda sistematicamente questi coloni di etnia Han nello Xinjiang per appunto cercare di sinizzare. Io sono stato a Urumqi, che è la capitale dello Xinjiang, l'ultima volta nel dicembre dell'anno scorso, però la situazione è semplicemente che esiste una città cinese e poi dei quartieri uiguri con delle linee invalicabili, le linee vengono valicate di continuo, però freschi di scontri c'erano ancora, i poliziotti della polizia militare con i tank e il fucile tutti rigorosamente hanno, che pattugliavano le strade. Stessa cosa per il Tibet, che è una situazione analoga, solo che invece appunto di esserci gli islamici ci sono i buddisti tibetani. E assieme appunto a questi fattori di disturbo di tipo etnico ci sono appunto quelli di tipo economico di cui parlavamo prima. Perché attenzione, è vero che economicamente la Cina siede sulle più imponenti riserve di valuta estera del mondo. La Cina è il primo creditore degli Stati Uniti. Loro non rendono noto il valore, cioè la denominazione della la composizione delle loro riserve di valuta estera. Si sa che sono attorno ai 2.400 miliardi di dollari, ma non si sa quanto di questi 2.400 miliardi di dollari sia effettivamente in treasury bonds, quindi in dollari, quanto in euro e quanto in altre valute come lo yen giapponese o anche la moneta thailandese, perché c'è anche quella. Però la stragrande maggioranza è costituita da dollari, quindi si stima che circa 2.000 miliardi di queste valute siano, di questa riserva di valuta estera siano denominati in dollari. Quindi, e qui arriviamo a un problema di ordine tanto economico che geopolitico. Allora, la Cina è il primo creditore degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti però hanno, Cina e Stati Uniti potremmo dire hanno questo singolare rapporto di interdipendenza che la crisi ha espresso, ha portato sotto gli occhi di tutti. E torniamo appunto al modello di sviluppo di prima, per cui tutto quello che era stato prodotto sotto costo in Cina e poi esportato nel resto del mondo, soprattutto negli Stati Uniti e comunque anche in Europa, ha generato una interdipendenza fra Cina e Stati Uniti sempre maggiore. Il consumatore statunitense che viveva al di sopra delle sue possibilità comprava cinese. Probabilmente la crisi economica a posto fine, il consumatore americano che viveva al di sopra delle sue spese non esiste più, così come lo conoscevamo, ma non esiste ancora un consumatore cinese capace di prendere, di sostituirlo. E tenete conto che i cinesi sanno di essere dipendenti dal dollaro, perché non possono comprare praticamente altro per rimpinguare le loro casse. E hanno cercato di varare un'idea che è molto proiettata in avanti nel tempo, che però potrebbe avere un addentellato sia economico sia politico. È successo a febbraio di quest'anno, il governatore della banca centrale di Pechino, Zhou Xiaochen, a un certo punto ha tirato fuori quest'idea, cioè il dollaro è una moneta, cioè lui ha detto basare i commerci internazionali su una sola valuta, cioè il dollaro, è pericoloso. È pericoloso perché abbiamo visto che appunto una crisi che ha debilitato gli Stati Uniti si è avuto degli effetti nel resto del mondo. Noi proponiamo una valuta alternativa per valutare gli scambi, per regolare gli scambi internazionali, che sono i diritti speciali di prelievo. I diritti speciali di prelievo sono una moneta virtuale che è stata creata all'interno del Fondo Monetario Internazionale diversi anni fa, che serve essenzialmente per una serie di pagamenti internazionali minimi, ed è basata su un paniere di valute composto principalmente, è una moneta virtuale composta al 45% dal dollaro e poi con quote di euro, sterlina e yen giapponese. Quello che la Cina, quello che Zhou Xiaochen ha proposto invece di una riforma del diritto speciale di prelievo con l'ingresso dello yuan cinese e un nuovo diritto speciale di prelievo, quindi a 5, dollaro, euro, sterlina, yen giapponese, yuan cinese, ciascuno con quote uguali. A questa nuova moneta fa da pandan, potrebbe fare da pandan, un modello politico che è quello che la leadership di Pechino cerca di da anni di diffondere. C'è questa idea di grand strategy, che è una grand strategy differente da quella che possono avere gli Stati Uniti, ed è il famoso mondo multipolare. Cioè, se ricordate quello che vi ho detto a proposito del club dei 7-8 imperi. Sì, esatto, un mondo in cui ci sono delle aree di influenza, 7-8 imperi appunto. Perché Canna parlava dei tre imperi, ma mi sa che siamo già, sì, c'è un po' di tempo, esatto, mi sa che siamo già oltre. E quindi 7-8 macro aree di influenza con una moneta basata su tante monete. Questa è una delle linee della grande strategia cinese. A livello però di problemi interni ne abbiamo dimenticato uno, che è la questione della corruzione. Sì. Abbiamo dimenticato due cosette, però vai, che tanto è rivolto dopo con le domande. Vai sulla corruzione. Gran parte degli scioperi, delle manifestazioni che vengono registrate, che vengono, qualcuno le ha contate in maniera informale, sono circa 10.000 all'anno, hanno come origine proprio il problema della corruzione. Questo perché? Perché torniamo al modello economico. Il modello economico è un modello che è una cosa effettivamente inedita. Cioè c'è uno Stato che ti permette di avere tutta una serie di libertà economiche, ma che dirige attraverso una serie di forti imprese statali l'andamento economico del paese. Attenzione, è un conglomerato in cui tutto è collegato: la politica, l'economia, la finanza con le banche. È chiaro che una situazione di questo genere crea degli strani conflitti di interessi, per cui se uno va a vedere quelli che siedono nel consiglio d'amministrazione delle principali, delle quattro banche cinesi, sono dei tecnocrati che si sono formati all'estero, ma che sono contemporaneamente formati alla scuola del partito e che hanno una precisa rispondenza politica, che nominano dei funzionari che fanno parte della loro cordata, della loro filiera politica, e così a cascata. Se uno va a esaminare l'organigramma delle compagnie private a livello locale, le compagnie che poi appunto, non lo so, sono quelle che hanno avuto maggiori benefici dal pacchetto di stimoli all'economia, quindi quelle che hanno preso i soldi dello Stato, sono le stesse persone che siedono nel governo locale. Questa sovrapposizione continua crea effettivamente una corruzione diffusa, anche perché esiste ancora una burocratizzazione estrema, per cui per avviare tutta una serie di imprese c'è bisogno del placet, delle varie articolazioni dello Stato, e effettivamente all'ultimo congresso del partito che si è tenuto Assemblea Nazionale del Popolo, attenzione che è un'altra cosa, cioè una sorta di parlamento della quale è dotato la Cina, tra le linee guida che sono state lanciate dalla leadership di Hu Jintao e Wen Jiabao c'è effettivamente la lotta assoluta alla corruzione. Problema che è sentitissimo a livello popolare. Se andate a parlare con tutti i miei amici cinesi, cioè gente comunque della classe media, ben educata, della costa, quelli che non hanno addentellati, che non hanno ganci di partito sono effettivamente estremamente arrabbiati. Cosa voleva? Ma io farei una cosa, io farei due integrazioni su cose che poi mi sono assentato un momento, non so se le detto di correggi, e dopo magari facciamo, farei un'ultima considerazione sull'attualità e il prossimo immediato futuro cinese, il prossimo anno. Le integrazioni sono queste, semplicemente, poi ovviamente se vuoi. Dunque, il grande sviluppo cinese che assolutamente non ha precedenti nella storia, una velocità di questo genere, è come spiegarlo? C'è una spiegazione che è quella prevalente, per cui è uno dei miracoli della globalizzazione. Quando la globalizzazione funziona, la somma di privatizzazione più internazionalizzazione del mercato fa miracoli. In realtà questa spiegazione non convince tantissimo. Per non farvi la lunga, io ci darò un solo libro. C'è questo libro che vi segnalo, molto importante, di Prem Shankarian, che è un importante economista storico, proprio del più indiano, Quando la tigre incontra il dragone, sulle prospettive di sviluppo di Cina e India, il quale dimostra come in realtà lo sviluppo cinese in termini di investimenti si è iniziato già nel triennio 78-81, molto prima delle privatizzazioni e immensamente prima della liberalizzazione del mercato, che in realtà la spiegazione sembra risiedere, a mio avviso, piuttosto in un'altra cosa, nel fatto che la Cina ha voluto di una milione di capitali che hanno consentito degli investimenti massicci. Da dove è venuta questa milione di capitali? Prima, dagli investimenti stranieri in Cina, ci si meraviglia del fatto che la Cina abbia incrementi dal 7% all'11% annuo di PIL, mentre invece il mondo occidentale ha dei tassi pensabilmente più bassi, intorno all'1,5-2, quando è 3 è festa grande. E però è anche vero che buona parte, questo dipende dal fatto che capitali occidentali non vengono investiti qui, vengono investiti in Cina, dando vita ad aziende cinesi. Cina che attrae i capitali occidentali perché? Perché la forza lavoro. Scusami, un inciso. Sì. I capitali occidentali che arrivano in Cina danno vita a aziende cinesi perché per aprire una compagnia in Cina devi dare vita a una compagnia cinese. Quindi questo di fatto ti mette sotto il controllo fiscale. E per di più è conveniente perché c'è una forza lavoro che costa poco, sì. Non c'è nessuna legislazione di tutela ambientale che invece c'è in Occidente a dei costi, perché c'è una grande disponibilità di spazi che costano pochissimi, che vengono dati in uso, e quindi perché c'è una scarsissima pressione fiscale non esistendo un welfare cinese. Quindi intanto c'è una forte attrazione di capitali internazionali. A questo si sommano le rimesse. C'è un solo paese al mondo che ha un'emigrazione di decine di milioni di persone, si calcola fra le 35 e i 40 milioni di persone, che fanno rimesse in patria e che in gran parte sono rivenditori di merci cinesi. Perché l'emigrazione cinese, a differenza delle altre, è un'emigrazione largamente organizzata, come dimostra anche la tendenza a compattarsi in determinati luoghi. Esiste uno studio di numerosi architetti francesi che hanno studiato la disposizione delle comunità cinesi nelle città europee. Esistono alcune costanti, ad esempio. Cioè ci si. Via Paolo Sarpi. Ora, altra cosa, la Cina ha goduto quindi di forti, immani quantità di rimesse, quasi come se l'intera Italia fosse migrata e rimettesse alla patria d'origine capitali eventualmente realizzati altrove. Però va detto anche un'altra cosa, che c'è stato un altro gettito importante che porta la targa di triadi e pirateria. La pirateria del Mar Giallo si sospettava ispirata dal regime, tollerata, non è importante, questo a un certo punto ci sono state misure repressive. Fatto sta che comunque ha diretto masse di capitali, merci, eccetera, in Cina cospicue. Le triadi esercitano un ruolo internazionale tutt'altro che rilevante, ne abbiamo parlato nella lezione sulle mafie, no? Quindi il miracolo cinese, sì, in parte è dovuto alla liberalizzazione degli scambi, alla privatizzazione, ma guardate che in gran parte è dovuto a delle caratteristiche prettamente cinesi. Caratteristiche cinesi, sì. Soprattutto io ci vi ha una disponibilità di liquidità di capitali che non ha precedenti. In secondo luogo, e qui mi aspetto che tu precisi la legge del Chiang-Duo, c'è una cosa, il miracolo cinese, il miracolo che presenta molti aspetti di razionalità e di spreco. In particolare la Cina ha una frammentazione assolutamente irrazionale di imprese economiche, di aziende, che hanno un tasso di produttività ridicolmente basso. In Cina esistono 28.000 miniere di carbone che producono 70.000 tonnellate mediamente. 300 morti da vabbè, quando i cinesi sono tanti mi rimangono, non c'è problema. Quando va bene. La Germania ha 9 miniere di carbone che producono 5 milioni di tonnellate. Non so se avete capito il divario, eh? Le raffinerie in Cina sono 56 e producono 4 milioni di tonnellate di prodotto raffinato. In Corea sono 6 contro 56 e producono 21 milioni di tonnellate contro i 4 cinesi. Gli altiforni sono 263 contro i 29 cinesi. In Giappone, 29 giapponesi volevo dire, e producono 750.000 tonnellate in Cina contro i quasi 3 milioni di tonnellate in Giappone. Cementifici sono 5.000 in Cina contro i 65 del Giappone, non so se avete capito il divario, e producono in Cina 190.000 tonnellate di cemento, in Giappone 1 milione di tonnellate. Cioè la produttività degli impianti cinesi è una produttività nell'ordine medio delle 400-500 volte in meno degli stessi impianti in Germania, Corea, Giappone, eccetera. Questo dà luogo tra l'altro a uno spreco di materie prime, in particolare l'alluminio per esempio, elevatissimo. La Cina è un grande consumatore di materie prime. Poi parleremo nella prossima lezione appunto del problema della ribellione delle cose. Da un lato c'è una sovrapproduzione sfacciata, perché quando tu hai la produzione di, ad esempio, adesso non riesco a trovare un dato, la produzione di frigoriferi, di lavatrici, di televisori, eccetera, è tale per cui le prime 8 aziende producono meno del 10% della produzione complessiva. Cioè hai una frammentazione del tessuto produttivo che per esempio espone a irrazionalità produttive e a sovrapproduzioni che rimangono poi veramente in vendute o perlomeno normalmente spostamento della componentistica. Esatto, quindi attenzione, perché è vero che c'è questo grande miracolo, cioè, però attenzione sia alle origini di questo miracolo sia a un'altra cosa, attenzione alle fragilità di questo sistema. Questo è un sistema che per esempio ha un andamento produttivo assolutamente basso e degli sprechi elevatissimi, e attenzione perché questo già sta dando i segnali di una fiammata inflazionistica. L'eccesso di liquidità produce questo. Faremo i conti fra 2 anni. A proposito di fra 2 anni, raccontaci un po' che cosa sta succedendo in Cina in previsione del prossimo futuro. Sì, allora ancora due linee di politica interna e poi di politica internazionale. Nel 2012 l'attuale amministrazione cinese, quindi Hu Jintao, segretario segretario del Partito Comunista Cinese e presidente, e Wen Jiabao, Wen Jiabao premier, con alcuni dei più importanti funzionari della leadership, cioè quelli che siedono nel temibile comitato permanente del Politburo, il vertice dello Stato cinese, andranno in pensione. Questo perché nel corso degli anni la Cina, nel corso della sua storia, la Cina ha sperimentato varie forme di successione. Adesso essenzialmente c'è questa uscita di scena programmata per sopraggiunti limiti di età. Le persone che dovrebbero succedere sono l'attuale vice premier Li Keqiang e l'attuale vicepresidente Xi Jinping. Prima, quando abbiamo cominciato, dicevo che bisogna fare attenzione a pensare al Partito Comunista Cinese come un blocco unico. Non è così. Come è chiaro, è quella che è la più imponente macchina politica del mondo, perché è il partito che per ovvie ragioni ha più iscritti al mondo. Esistono delle dinamiche interne, esistono anche vari gruppi e varie fazioni che possiamo identificare con l'accetta per grandi linee. Hu Jintao e in una certa misura anche Wen Jiabao sono espressione di una corrente che hanno chiamato Tuanpai. I Tuanpai sono l'espressione della Lega Giovanile Comunista, quindi sono cresciuti all'interno della Lega Giovanile Comunista, ognuno di loro ha sperimentato, cosa che è una costante nella storia dei politici cinesi, periodi di allontanamento dai centri del potere e costrizione a servire nelle province più remote, e l'altro, ognuno appunto dei tuan, diciamo che i tuan pai, quindi l'espressione della mega giovaniera comunista cinese, sono i fautori di una minore apertura a tutta una serie di istanze che arrivano dall'Occidente. Sono meno aperti, sono più ortodossi, se vogliamo, sono meno aperti alle riforme, e sono i portatori di una, appunto, della famosa società armoniosa, che non deve puntare esclusivamente all'arricchimento, ma deve prendersi cura anche delle istanze dei più poveri. Questo perché appunto le sacche di povertà che sono create sempre di più possono essere una mina vagante che potrebbe... Quindi più preoccupati del consenso. Del consenso, sicuramente. Alla, appunto ai guampai, quindi a quelli che sono espressione della Lega Giovanile Comunista Cinese, hanno fatto per un certo periodo da contraltare la cosiddetta cricca di Shanghai. La cricca di Shanghai era composta da tecnocrati molto attenti all'economia, sono stati fra i principali protagonisti dell'ultima fase del miracolo economico, ma con una serie di campagne mirate sono stati messi in minoranza negli ultimi anni. Sono l'equivalente di quello che vi ho detto ieri a proposito della rivoluzione dei manager. Sono l'anima manageriale. Sono l'anima manageriale, sicuramente. Quindi decisori economici, tendenzialmente. Sì, dei tecnocrati. Sono ancora importanti, però tutta una serie di campagne anticorruzione che sono state varate negli ultimi anni, 2000-2006, servivano essenzialmente a fare fuori, evitare che questa componente del partito prendesse troppo potere, anche perché tenete conto che i pilastri su cui si regge la leadership del presidente Hu Jintao non è solo la Lega Giovanile Comunista Cinese, ma è anche tutta una rete di conoscenze personali che Hu Jintao è riuscito a sviluppare negli anni che ha trascorso all'Università Tsinghua, che è la principale università cinese. Stiamo facendo, in realtà ci sarebbero altri gruppi, però stiamo facendo proprio una divisione con l'accetta per cercare di capire. A fare da ago della bilancia esistono poi i Taizhe. I Taizhe sono i principi rossi, sono l'espressione della... sono gli eredi degli eroi della lunga marcia, e degli uomini che stavano a fianco a Mao Zedong. Sono una componente minoritaria, ma molto importante. Eredi in che senso? Nel senso che sono familiarmente discendenti o eredi simbolici? Sono familiarmente discendenti. Sono le dinastie rosse. Sono le dinastie rosse, sono l'aristocrazia del Partito Comunista Cinese. Tra l'altro fa parte di questo gruppo Xi Jinping, che dovrebbe essere l'erede di Hu Jintao. Sono appunto una componente minoritaria, però sono importanti perché molte conglomerate di Stato, molto importanti economicamente, sono nelle mani di gente che fa più o meno capo a questa fazione. Esistono poi gli Ai Guanfai, che sono dei tecnocrati di nuova generazione, che hanno un altro ruolo economico rispetto alla cricca di Shanghai. Generalmente sono quelli che hanno studiato molto all'estero e sono degli economisti che stanno molto all'interno della banca centrale, del fondo sovrano cinese, che però appunto hanno un ruolo di tecnocrati di minoranza, ai quali vengono demandate tutta una serie di decisioni economiche, ma che sono messi in minoranza per tutte le decisioni politiche, che vengono guardati con sospetto perché potrebbero essere un po' troppo occidentalizzati, che ancora non fanno gruppo fra loro. Adesso, cosa succederà nel 2012 sul fronte interno? Ci sarà appunto questa successione. Questa successione però ha tutta una serie pone tutta una serie di interrogativi. Il primo è appunto riguarda questa diarchia fra Xi Jinping, quello che potrebbe essere il futuro presidente, e Li Keqiang, quello che potrebbe essere il futuro premier, i quali vengono da esperienze diverse. Xi Jinping appunto è un Taizi, è un principe rosso. Li Keqiang fa parte grosso modo invece del gruppo dei Tuan Pai. Molti politologi cinesi e non solo hanno coniato per questa diarchia il termine di squadra di rivali. Volenti o nolenti, questi due signori devono stare insieme e devono traghettare la Cina verso i cambiamenti successivi, verso il futuro. Esistono poi però tutta una serie di curiosi personaggi, di cui il più importante è Bo Xilai. Bo Xilai anche lui è l'erede di un eroe della Lunga Marcia, a fianco di Mao Zedong, ed è un personaggio che sta acquisendo una popolarità sempre più vasta in Cina. Ve ne parlo perché è interessante vedere come si sta arrivando a un personalismo e anche a un cambiamento dei leader. Se vedete, questa che è al potere adesso è la quarta generazione dei leader del Partito Comunista Cinese, e sono tutti molto ingessati, c'è tutta una liturgia del potere che serve anche a mantenere le distanze. Quelli della quinta generazione, che sono quelli che andranno al potere nel 2012, mantengono ancora questi comportamenti molto ingessati. Bo Xilai e altri meno conosciuti come lui fanno un po' la differenza. Questo signore è stato spedito dopo appunto una carriera brillante all'interno del partito, è stato anche ministro dell'industria, a un certo punto viene spedito come segretario del partito qualche anno fa a Chongqing, che è una città da 30, una megalopoli, una municipalità enorme da 32 milioni di abitanti nel centro della Cina, che nelle intenzioni del partito dovrebbe essere la testa di ponte per lo sviluppo delle regioni occidentali. È stato un castigo, lo hanno mandato via perché cominciava a dare fastidio, è stata una promozione, non si sa. Fatto sta che Bo Xilai arriva lì e tira fuori questo volto un po' populista e un po' legalitario, che ha un immenso successo. In 3 anni lancia una campagna anticorruzione che decapita i vertici della politica di Chongqing e porta all'arresto di circa 400 persone che erano appunto al processo a circa 2000 persone e all'arresto di circa 400 persone, parliamo dei vertici, fra cui il capo della polizia, vari sindaci e vari amministratori sia di imprese pubbliche che private. Il capo della polizia verrà fucilato a giorni e gode di una immensa e improvvisa popolarità. Pietro cinese. È un Di Pietro misto a un Cesare Mori. Sulla via del peggio non c'è un Pietro. Però è molto fotogenico, sa parlare molto bene in pubblico, non ha questo stile ingessato. Risultato: sul web cinese ci sono le canzoncine di ode a Bo Xilai, e vi garantisco che andare a parlare con l'uomo della strada, non a Pechino ma a Urumqi, nello Xinjiang, quindi nelle province dove c'erano state, loro dicevano: noi vorremmo un po' Silai qui perché servirebbe un uomo di questo genere. Potremmo cedergli di Pietro. C'è zero. Ora, nel 2012 cosa succederà? Boh sì, poi ci sono state ovviamente le accuse dalla capitale: tu stai facendo questo perché hai a cuore la tua carriera politica. Se non che Boh Silai nel 2012 tornerà a Pechino perché finisce il suo mandato, e tenete conto che Boh Silai ha anche tutta una serie di amicizie fra molti uomini politici italiani, che ha tutto un reticolato di contatti molto, molto preciso. E nel 2012 potrebbe, sta cercando una doppia operazione, della quale probabilmente gli riuscirà solo il 50%, cioè vuole entrare nella commissione permanente del Politburo, fra questi 8 signori che stanno lì e detengono il vertice del potere cinese, in sostituzione di Zhou Yongkang, che era l'ex ministro degli interni, uomo forte, responsabile della sicurezza. Mi pare duro però, mi pare duro far fuori l'uomo dell'intelligence. Ma terrà un altro tipo di... deve andare via. Nel senso, per sopraggiunti limiti di età. E Boh Silai potrebbe essere il sostituto. Però lui sta cercando un doppio scatto di carriera che non si è mai visto, cioè cercare contemporaneamente di entrare nella commissione permanente del Politburo e diventare anche vice premier. Se riuscisse una cosa di questo genere sarebbe un colpo da maestro, e sarebbe anche il segnale di un mutamento all'interno delle regole di designazione del partito, perché ora come ora cosa succede? Succede che le varie fazioni si mettono d'accordo sul nome, e poi attraverso una serie di scatti programmati riesci ad arrivare di faide interne assolutamente nascoste, riesce ad arrivare al potere. Però sono degli scatti molto programmati. Se invece notano molti intelligenti politologi cinesi che insegnano all'estero come Bo Jiwe, ci fosse uno scatto di questo tipo, significa che questa liturgia, questa prassi sta venendo meno, e il meccanismo di successione si baserebbe sempre di più sul prestigio personale, sul carisma, e non sulle regole già fissate. Vedremo cosa succederà. Questo sul fronte interno. Sul fronte diciamo di politica estera, la Cina ha fatto tutta una serie di cose negli ultimi anni che poi arriveranno, c'è uno dei nodi che arriveranno al pettine anche fra 2 anni. Allora, c'è stato questo tentativo di, da un lato, di isolare geopoliticamente l'India con quella che hanno chiamato la tattica del Rimland, cioè cercare di... Rimland è la corona di perle, una corona di perle che cerca di cingere l'India, di creare una serie di basi cinesi nell'Oceano Indiano per cingere l'India. La Cina ha ottenuto uno sbocco sul mare del Giappone non più tardi di qualche mese fa, grazie alla collaborazione del fedele alleato Corea del Nord, la quale ha concesso l'uso totale di una base sul mare del Giappone. Quindi India, mare del Giappone. A ovest, giusto per evitare di andare in altre, ancora più ovest, però paesi come il Kazakistan hanno, oltre a tutta la rete di oleodotti che ormai collega l'Asia centrale alla Cina, il Kazakistan ha recentemente concesso l'uso della terra a migliaia di contadini cinesi, cioè si sta creando un'enclave cinese che già c'è in parte in Kazakistan, così come senza una concessione formale la Siberia russa al confine con la Cina si sta sinizzando sempre di più. Avrete sentito sicuramente parlare degli interessi cinesi in Africa, i quali però stanno dando il via a tutta una serie di problemi. Ultimamente ci sono stati degli episodi di pogrom nei confronti dei cinesi in Algeria e in altri paesi. Questo perché pian piano moltissimi governi africani che avevano aperto le porte completamente si stanno rendendo conto che la penetrazione cinese lascia molto poco, lascia delle infrastrutture, non viene tutti gli operai cinesi che arrivano e costruiscono queste infrastrutture vanno a sfruttare le miniere africane, non lasciano una lira all'interno del paese, perché assieme alla multinazionale cinese che arriva viene messa in piedi tutta una specie di Chinatown per cui il cinese non esce da questa Chinatown che sta vicino alla miniera o vicino alla struttura da costruire, e tutti i soldi che spende vengono spediti all'interno di questa Chinatown e vengono riportati indietro in Cina. Tra l'altro lo scenario africano sarà interessante, lo scenario Africa-Cina sarà interessante da seguire, anche perché la Cina sta cercando di costruire, ha già costruito in realtà probabilmente una portaerei, che molti ritengono serva come la famosa controllata dai russi in Crimea e in Ucraina, che doveva essere un casino danneggiato. Sì, ma probabilmente ne stanno costruendo, l'hanno annunciata l'anno scorso per i 60 anni della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, probabilmente è già pronta, probabilmente ne è già pronta un'altra, molti ritengono che serva ad aumentare la capacità di proiezione dell'esercito di liberazione popolare sul fronte del Pacifico, tant'è vero che comunque che la priorità degli Stati Uniti è diventata il fronte pacifico e non più quello atlantico, però una cosa che è passata un po' inosservata è che invece stanno contemporaneamente progettando, realizzando una immensa nave militare ospedale da migliaia di posti. Bisogna vedere se poi appunto lo scenario nel quale la Cina deve difendere i propri interessi sia più quello atlantico e invece non quello africano verso l'indiano. Io propendo per questa ipotesi, quindi cominciamo ad abituarci all'idea di un esercito di liberazione popolare cinese che ha delle maggiori capacità di proiezione e che interviene a proteggere i suoi interessi su scenari abbastanza inediti. L'ultima cosa, gli ultimi nodi che verranno a pettine fra qualche anno sono di tipo economico. Abbiamo già parlato di una serie di criticità interne al sistema cinese. Senza annoiarvi con dati economici eccessivi, oltre i 4.000 miliardi di yuan del pacchetto di stimolo dell'economia, le banche cinesi l'anno scorso hanno prestato per aggredire la crisi e far girare l'economia la cifra record di 9.590 miliardi di yuan in un anno. I nuovi prestiti erogati sono raddoppiati rispetto all'anno precedente. Quindi c'è un'immensa mole di liquidità che è stata messa in campo, che è finita soprattutto in investimenti di tipo immobiliare, che hanno portato anche all'aumento dei prezzi dei casi di cui parlavamo prima e che hanno portato anche a un indebitamento delle amministrazioni locali. Le amministrazioni locali hanno fatto una serie di iniziative immobiliari che rischiano di essere l'esempio emblematico di questa città di Ordos, che è una città che è stata costruita dal nulla nella Mongolia interna, provincia a nord di Pechino, ai confini con la Mongolia vera e propria, che invece ovviamente è una città indipendente, una città modello, nuovissima, con tutti i comfort, completamente vuota. Moltiplicatelo per tanti altri progetti di questo genere in giro per la Cina e capirete come comunque c'è un... Allora, lo Stato centrale è solido, le banche cinesi sono solide perché appunto alla fin fine sono sempre delle articolazioni dello Stato, le amministrazioni locali che si sono indebitate per portare avanti questi progetti perché gli veniva ordinato comunque di far girare questi soldi per aggredire la crisi, potrebbero non essere così solide, si sono indebitate con le banche. Se il prezzo degli immobili, come si stima, tornerà a scendere tra il 20 e il 30%, moltissime banche cinesi potrebbero trovarsi con dei crediti non esigibili in mano, per i quali cosa faranno? Andranno a pignorare quello che le amministrazioni locali hanno offerto loro in garanzia, cioè i terreni, e sui quali già sorgono dei progetti immobiliari, e questo potrebbe portare allo smantellamento di una serie di amministrazioni locali cinesi. Sul fronte però internazionale c'è appunto una scadenza nello stesso anno che è molto importante, che poi forse si riverbera anche però sulla questione della... Nel 2012 verranno a scadenza una notevole quantità di bond, di titoli di credito, emessi nel periodo di euforia fra il 2005 e il 2007, sono buoni poliennali. Di questa massa il 43% è degli Stati Uniti, dell'intera massa mondiale. Ora, questo pone dei problemi molto seri. Cioè, il problema è se i risparmiatori reinvestono, cioè riscuotono l'interesse e ricomprano i titoli. Questo manterrebbe la situazione in cui vi ricordate la famosa battuta di Totò al suo maggiordomo che diceva: Marchese, mi pregate così, ieri mi avete detto domani ti pago. E quello rispondeva: è domani ti pago. Cioè, questo fatto c'è sempre domani e vabbè, per un po' vai avanti. Il guaio è quando arrivi all'incasso e non c'è più domani, mi devi pagare adesso. Lì che cosa succede? Che o gli Stati Uniti, per invogliare i risparmiatori, offrono interessi molto elevati, e però quello poi diventa rapidamente ragione di ulteriore crisi, e soprattutto voi sapete che più guadagno significa più rischio. Oppure gli Stati Uniti cercano di far fronte alle... Intanto gli Stati Uniti stanno cercando di scoraggiare alternative, ed è il motivo per cui le agenzie di rating americane stanno massacrando i titoli, i bond europei, Grecia, Portogallo, Spagna, guardate che noi siamo subito dopo, in modo da deprimere l'euro e scoraggiare investimenti nei bond europei. Tra parentesi, perdonami, i cinesi ci hanno provato, che a un certo punto stanno cominciando a manifestare un maggiore interesse nell'acquisto, nella diversificazione dei loro portafogli di valuta estera, e quindi cercando di deviare una parte del denaro investito in dollari dal dollaro all'euro, dopo la crisi greca sono ritornati essenzialmente. No, c'è stato di peggio, c'è stato di peggio. Dopo la crisi greca c'è stato un intervento della banca cinese che aveva ristabilizzato il dollaro e l'euro. Il giorno dopo le agenzie di rating americane hanno declassato il debito spagnolo il giorno dopo, ed è ripresa la discesa dell'euro. Quindi proprio è chiaro questa legge. Il problema qual è? Che secondo me, ma non sono d'accordo mai che non sono economista, probabilmente gli investimenti si dirigeranno su loro. L'oro è già a 1350 dollari l'oncia, si prevede che possa arrivare a 3.000 dollari, c'è un cataclisma dal punto di vista dell'economia mondiale, e questo significa una serie di cose, significa che a quel punto gli Stati Uniti hanno una scelta: o andare in default, però anche per ragioni di prezzi, cioè come si fa ad avere una moneta internazionale di riferimento che dichiara il default? Non si può fare. Oppure devono fare un'altra cosa, devono emettere denaro e pagare. Quello però significa una fiammata inflattiva senza precedenti. Quello significa che oro, petrolio, rame, zinco, frumento, mais, caffè, eccetera, eccetera, possono raddoppiare di prezzo nel giro di qualche settimana. Non so se vi rendete conto di che sia. Tu vai dal benzinaio e il pieno che facevi con 20 euro ieri, pieno 20 euro diventa 40 da un giorno all'altro. Cioè, fate i conti di che cosa significa. Quindi il 2012 è certamente un anno, la vera crisi è fino ad adesso quelli che dicevano è finita, no, è finito l'antipasto. La crisi vera, che sarà una crisi economica oltre che finanziaria e politica, sarà dal 2012 probabilmente. Ecco, Pechino sta cercando già una exit strategy per non essendo estremamente dipendente dal dollaro, però per ragioni perché è piena di dollari nelle sue case, sta già cercando una exit strategy. Se andate a vedere gli ultimi dati, gran parte, cioè, allora, dollaro sì, devo continuare a comprarlo perché sono legato a doppio filo al dollaro. Euro abbiamo visto, ne compro un po' di meno perché se avessi voluto comprarlo c'è stata la crisi spagnola a dissuadermi. Altre monete di riferimento come lo yen giapponese, eccetera, tanto non quanto. Se andate a vedere gli ultimi dati, stanno comprando sempre di più materie prime, commodities, dovunque, su vari scenari, quindi costeranno di più, su vari scenari. E stanno comprando terra, questo è un fenomeno interessante, il land grabbing, come chiamano quelli che amano parlare in inglese, cioè essenzialmente il fenomeno per cui le compagnie private cinesi, che però non rispondono solamente a una logica privata, comprano terra coltivabile un po' tutto il mondo. E poi oro. Adesso facciamo di parlare, no? Beh, ragazzi, forza. Io volevo capire. Mi scusi, lei è? Carboni. Ah, sì. Esatto, la distanza non la vedo. Volevo capire una cosa. Cioè, se lei affascina a un sistema basato sull'idea di società armoniosa, come ha fatto a radicarsi così profondamente il problema della corruzione? Per me è una grande contraddizione. Perché? Dove ce l'avete della contraddizione? Perché la società armoniosa comunque è la società in cui bisogna guardare l'interesse comune, mentre la corruzione è finalizzata più all'interesse, alla tutela dell'interesse personale. Sì, appunto. Vabbè. Facciamo a blocchi, va? Mi sa che lei legge la parola armonia in modo molto occidentale. Mi sono spiegato male io. Adesso arriviamo a cosa è la società armoniosa. Una curiosità, chi sono i contatti italiani così là? I contatti italiani di così là. Non è che si dice da me, beh, oggi è successo. Io volevo capire una cosa sul rapporto Cina-Stati Uniti. Perché mi sembra che da un punto di vista, da molti punti di vista, ci sia un atteggiamento aggressivo della Cina nei confronti degli Stati Uniti, ad esempio dal punto di vista dell'intelligence, degli attacchi informatici, il caso di alcune intrusioni, il caso dell'agenzia di traduzione alla Huawei del 2004, mi pare. Bellissimo. Che faceva la traduzione per Huawei. Così imparano a risparmiare gli americani. Dall'altro punto di vista volevo sapere, uno, se dal punto di vista passeggiamo questa guerra non convenzionale, asimmetrica, qual è la risposta degli Stati Uniti? Vedete di parlare di appoggio del consenso, ad esempio sul Falun Gong, bisogna capire quanto poi è importante a quel livello. Quindi volevo capire qual era il livello, diciamo, dello scontro in questo momento. C'eri tu? No, chi c'è? Provisorio. Sì, questo non ricordo. Noi dopo che abbiamo studiato un libro sulla Cina dove praticamente spiegava che a causa dell'ideologia maoista è rimasto il ruolo dello Stato, dove i cinesi comunque appunto vedono lo Stato, il partito, come colui che può risolvere i loro problemi e tutto il resto, quindi appunto questo loro forte. Cioè, allo stesso tempo una contraddizione che, come ha detto anche lei prima, che stanno nascendo molti conflitti, molte rivolte contro lo Stato, la corruzione, i problemi di gestione. E quindi voglio sapere dal suo punto di vista come la vede questa cosa. Quindi vedere ancora lo Stato come padre e padrone, ma allo stesso tempo scontrarsi con il diverso. Stai chiedendo tu, Malandri? Io avevo un po' di domande, se... cambio pagina e questo l'ho finito. Allora, vabbè, sono su del principale. Allora, io ho, cioè, ho trovato, vabbè, allora sì, gli scioperi a Londra, oppure i suicidi, alla corrispondenza, varie cose che sono saltate fuori, e stanno innescando una dinamica di innalzamento dei salari in tutta la regione del Guangdong, o comunque diciamo che si innalzi Jiangsu. Guangdong, i primi scioperi sono stati in Jiangsu, che comunque sta sempre. Sì, comunque diciamo nella zona costiera del. Non può essere un modo, questa è una mia ipotesi un po' strappata, non può essere un modo, cioè, una strategia controllata, cioè, dal governo cinese, cioè che non siano in realtà i lavoratori, e questa, come dire, giunzione tra studenti e operai che poi scatena le paure del governo cinese, la mangia continuamente, eccetera, eccetera, ma questo. anche visto che cosa significa una proiezione militare all'estero così ramificata e pesante come fanno gli Stati Uniti, che è estremamente dispendiosa. Cioè, fino a che punto il gioco multipolare, che tra l'altro è stato pure creato dagli Stati Uniti, perché l'ideologia multipolare delle civiltà è una produzione della cultura, almeno no, però Huntington era americano, voglio dire. Sì, e poi l'ultimissima cosa è nel gioco di potere interno al partito comunista cinese ci sono appunto queste varie fazioni, però appunto per il ruolo che i cinesi hanno nelle riserve di valuta estera mondiale, e anche da quanto ho letto Strauss-Kahn alla presidenza del Fondo Monetario Internazionale, dove dovrebbe esserci un cinese. Strauss-Kahn, se viene eletto, viene candidato alle presidenziali in Francia. È stato mandato, sì, c'è un vicepresidente che è un ex advisor ancora un advisor della Banca Centrale. E comunque è diventato vicepresidente del Fondo Monetario Internazionale. Diciamo che la crescita di potere all'interno del Fondo Monetario della Banca Mondiale è molto forte. Cioè, in che modo queste dinamiche internazionali possono influenzare i giochi interni a questo punto? Ti hanno capito che ti ho abbiamo visto il primo blocco, la metà delle tue domande richiederebbe un intero servizio di intelligence per poter essere. Allora, per quanto riguarda la questione dell'armonia contro la corruzione, l'idea di armonia, la società armoniosa, che è appunto l'obiettivo dell'attuale amministrazione cinese, non è l'armonia come intendiamo noi. Cioè, l'armonia. Allora, non a caso, quando un sito web viene censurato, i cinesi dicono che è stato armonizzato. E il gioco di parole è evidente, la dice lunga su tutta la cosa. Cioè, l'armonia contiene il conflitto, questo e quello, cioè tutto sotto il cielo. Esatto. È quella che ha spiegato questo concetto, è tutto sotto il cielo. Cioè, appunto, uno dei vecchi, già in epoca imperiale, sia la società armoniosa era appunto un mantra di epoca imperiale, sia il tutto sotto il cielo, cioè l'idea che appunto la Zhongguo, il paese di mezzo, sia governato per un mandato che arriva dall'alto, che poi sia stato dato all'imperatore, e che poi questo mandato sia stato poi rilevato dal Partito Comunista Cinese, poco importa. L'importante è che appunto sotto il cielo venga mantenuta tutta questa armonia, che non è assolutamente in contrasto con la corruzione, nel senso che appunto la corruzione è un male che va composto. Va ricomposta la frattura che la corruzione ha creato nella struttura sociale, e quindi che può sfociare nel malcontento, che potrebbe essere un malcontento che porta al ritiro del mandato che il Partito Comunista Cinese detiene. Quindi l'idea di conflitto e di rottura. Sì, assolutamente, anzi. Non è la cosa irenistica che pensiamo. No, esatto, non è appunto un'irenistica il termine spazzato, anzi è la composizione del conflitto, se necessario anche in maniera interventista. I contratti italiani di Bosilai a quanto pare sono molto bipartisan. L'attuale viceministro dello sviluppo produttivo con delega commercio estero, mi sembra che sia l'onorevole Urso, è una persona che ha una certa ha una certa conoscenza della Cina, una delle persone come? Appena tornato a Shanghai. Sì, è stata questa missione di sistema Chongqing, Pechino e Shanghai, Chongqing non a caso. E non solo lui, però anche lo stesso Prodi mi sembra che sia in buoni rapporti con Bosilai. Poi anche diciamo a livello così industriale mi risulta che ci sia anche Romiti in buoni rapporti. Chissà che idea si stanno facendo dell'Italia in Cina. Allora, il passo doble fra Cina e Stati Uniti. Lei giustamente diceva come sta reagendo l'America a questo dinamismo cinese che è stato appunto portato avanti attraverso attacchi hacker, si dice, e attraverso tutta una serie di altre iniziative. Ma io ritengo che il sostegno a Falun Gong, che è una setta religiosa che è stata dichiarata illegale diversi anni fa perché poteva appunto, era diffusa a tutti i livelli, e una protesta sfociò in una manifestazione che arrivò fino a Zhongnanhai, che è il centro a Pechino dove stanno i vertici del partito, creando grosso scompiglio, e quindi poi portò la messa fuori legge di questa setta. Non penso che adesso ci sia, cioè c'è un sostegno ovviamente a parole, però sinceramente l'impressione che se ne parlava con un po' di colleghi è che al di là del sostegno a parole sul fronte proprio del Falun Gong ultimamente invece gli Stati Uniti abbiamo frenato molto, perché se no avremmo assistito, c'è una buona dose di fanatismo nei adepti del Falun Gong, qualcuno si sarebbe dato fuoco alle Olimpiadi, all'apertura delle sporce, però appunto queste sono invece come stanno rispondendo gli Stati Uniti su altri fronti. Ma dunque la Clinton e Geithner sono stati tre settimane fa a Pechino. Durante la conferenza stampa si è vista una Clinton che non sembra incarnare al meglio la politica estera statunitense, anche perché pare che abbia una serie di problemi di salute, di preoccupazioni di salute. Comunque loro stanno cercando di esercitare questa pressione molto forte per l'apprezzamento dello yuan. Lo yuan viene ritenuto una moneta sottostimata, e probabilmente lo è. Chi dice fra il 20, chi dice fra il 30% del valore. Questo perché è una moneta appunto, come diciamo, non convertibile, e il cui valore viene stabilito dalla banca centrale e quindi dal governo. Le pressioni che vengono esercitate sull'apprezzamento dello yuan vengono giustificate come? Dicendo voi avete agli albori della crisi avete praticamente bloccato i margini di fluttuazione dello yuan, adesso la moneta è sottostimata e questo vi sta consentendo alla Cina di avere un vantaggio sleale sul fronte dei commerci esteri, quindi dovreste apprezzarlo per avere una ricanare insomma la bilancia commerciale con il resto del mondo. La leadership cinese, la quale è consapevole che per evitare il surriscaldamento dell'economia che c'è già, come abbiamo visto, dovrà apprezzare lo yuan lievemente e dovrà anche aumentare i tassi di interesse. Però la linea ufficiale che loro pongono è: non apprezziamo perché temiamo l'afflusso di capitali speculativi dall'estero che potrebbero aumentare l'inflazione. È una scusa? Sì, perché fa gioco a tutto il discorso, però è anche vero che se lo yuan venisse apprezzato da un momento all'altro, questi capitali speculativi dall'estero, dall'altra parte del Pacifico, sicuramente arriverebbero e Bubble Play del 1997, quando con un'azione coordinata si cercò di tirare giù la borsa di Hong Kong, si scommise contemporaneamente contro il dollaro di Hong Kong e contro la borsa di Hong Kong. Lì la cosa rientrò perché il governo di Hong Kong, che all'epoca era ancora colonia inglese, eccetera, intervenì subito dicendo comprate subito titoli di Stato, e la cosa venne salvata così. E la breccia che gli Stati Uniti potrebbero effettivamente utilizzare per restituire qualche colpo è di tipo finanziario, oltre che di tipo di soft power, dicendo guarda i cattivoni che censurano Google e reprimono i poveri tibetani, eccetera. Gli uiguri, non li sostiene nessuno, quindi non li sostiene nessuno. Ah no, c'è lei e poi lui. Sì. Allora, dunque l'ideologia maoista, appunto questo ruolo forte del padre padrone, si ricollega un po' a quello che dicevamo sulla società armoniosa. A me è capitato di trovarmi in una situazione per dirti come funziona appunto l'appello all'ideologia maoista, appunto a questo ruolo del padre padrone. A Pechino, attorno alla corte suprema, esisteva un ghetto che è stato smantellato nel 2008, Fentai si chiama questa zona, nel quale stavano da anni e anni persone provenienti da tutte le province della Cina, sono i cosiddetti petitioners, avevano delle petizioni, cioè hanno avuto una sentenza sfavorevole da parte dei tribunali locali e andavano ad appellarsi alla Corte Suprema. C'era gente che rimaneva bloccata lì da anni e ogni giorno cercava di portare la sua petizione di fronte alla Corte Suprema. Questo ghetto è stato smantellato, i petitioners ci sono ancora, poi venivano sistematicamente portati via, eccetera. Però potrà sembrare riduttivo, però mi sembra un episodio che la dice lunga su un certo tipo di mentalità, che è quello al quale faceva riferimento lei. Sì, cioè io sto lì in fila e cerco di appellarmi, non metto in discussione la struttura. Non creo un movimento, non lo so, che punta a una riforma radicale, eccetera. Io protesto perché non mi è stato riconosciuto il mio diritto e chiedo all'imperatore che mi venga accordato il mio diritto. Che si occupi del mio caso. Che si occupi del mio caso. Il giudice di Berlino è la stessa cosa. Cioè, quindi, è una concezione del potere che comunque condivisa, per cui il potere cala dall'alto, cioè, non è prodotto della società. Quando scoppiano le rivolte nei villaggi locali, a livello locale, per la corruzione, poi il governo centrale arriva e stanga il funzionario corrotto e mette tutto a posto così, ma per evitare che poi la cosa si estenda, e allora viene accettata. Sì. Il corrotto, il cattivo è quello locale. Sì, e devo dire che l'imperatore invece. Questo è un messaggio che è riuscito a fare passare benissimo il tandem Jintao e Wenjiabao, che è il volto pulito e buono a qualsiasi disastro, come il terremoto del Sichuan oppure l'ultimo che ha colpito il Qinghai, si presenta subito, stringe le mani, porta il conforto dello Stato centrale, uccida qualche funzionario locale, perché insomma bisogna mostrare un po' di nervo. Sì, sicuramente, penso che sia un tipo di mentalità estremamente diffusa. Poi c'è le domande più testate. Mamma mia. Allora, studenti provocatori sulla strategia controllata per gli scioperi. Non lo so, non ho degli elementi per dire per fornire una risposta. Come opinione personale penso che la nuova legge sul contratto di lavoro che sarà approvata Tao e Jean Bao per far vedere che si avvicini alle esigenze del popolo, e che quindi una maggiore conoscenza di questa legge che c'è, ma che poi non viene applicata sempre, porti a scioperi e sono movimenti, perché ovviamente non ci si può basare sul sindacato per un'applicazione della legge. Poi che siano effettivamente tutti scioperi che sono stati indirizzati verso finora verso imprese straniere è vero, però è anche vero che sono gli unici scioperi di cui abbiamo notizie. Può darsi che ce ne siano altri nei confronti di imprese cinesi che però non sono così pubblicizzati. E come vengono calcolati i danni ambientali di una strategia di questo tipo? E, allora, io credo che tutta quella questione, diciamo appunto, del land grabbing o della siano un loro hanno molto questa i cinesi, la leadership cinese ha molto questa idea di proiettarsi molto più avanti nel tempo, e quindi loro sono consapevoli dei costi di questo genere di cosa, però è prepararsi al peggior scenario possibile per essere pronti a avere delle terre coltivate in caso di pandemia e la proiezione militare, anche quella è estremamente dispendiosa, però gli interessi cinesi, io ribadisco che secondo me lo scenario nel quale potrebbero intervenire è quello africano, Golfo di Aden, Corno d'Africa, per andare a proteggere quel tipo di Madagascar, di interessante. Lo scenario è quello, e quindi sono consapevoli del fatto che il gioco valga la candela. Quindi sì, è dispendiosa anche quella, però estremamente dispendiosa, però ne vale la pena. E poi sul fronte del Fondo Monetario Internazionale, adesso ho un vuoto in memoria, non mi ricordo il nome di questo vicepresidente, però è stato nominato recentemente per aumentare la presenza cinese all'interno del Fondo Monetario Internazionale. Come sappiamo è una istituzione occidentale e anglofona, non è anglofila, nonostante ci sia un francese. L'anglosfera. Francese e francese? Uno di questi francesi. Che parla bene l'inglese. Che parla bene l'inglese. È vero, allora loro stanno cercando di aumentare la loro presenza all'interno del Fondo Monetario Internazionale. Tieni conto che dall'ultimo vertice BRIC è stato detto chiaramente che il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale sono degli organismi che non rappresentano più gli equilibri, e poi praticamente c'è stato un cambiamento all'interno del Fondo Monetario Internazionale. Loro hanno annunciato l'acquisto di 50 miliardi di dollari di bond del Fondo Monetario Internazionale subito dopo la proposta di Joe Chiachen, del governatore della Banca Centrale, di passare dal dollaro al diritto speciale di prelievo. Hanno fatto questo 1-2, cioè prima hanno lanciato quella proposta, che è chiaro che è una cosa che non succederà domani, ma l'hanno lanciata, e poi hanno acquistato subito bond del Fondo Monetario Internazionale. Quindi ancora una volta, così come era successo nella WTO, secondo me c'è un interesse non a ignorare il Fondo Monetario Internazionale, però in qualche modo a sinizzarlo. Sul conflitto di civiltà te lo spiego dopo. Vabbè, qui fra un po' ci buttano fuori. Allora, anche dove sono. Io ringrazierei Antonio Daniela. Grazie a voi. Ragazzi, mercoledì ci vediamo alle 12:15 in aula 3. Speriamo che riusciamo a comprimere la vecchia cercare di finire la soluzione di modelli di situazione. Poi giovedì facciamo regolarmente lezione qui, facciamo l'ultima lezione di corso, e venerdì facciamo il riassunto generale. Quando proprio c'è? 17.